Capitolo 44. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possono portare, e metti il denaro di ciascuno di loro alla bocca del suo sacco. Metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina, appena fu giorno, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Quando furono usciti dalla città e non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Parti, vai dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti dirai loro: perché avete reso male per bene? Non è quella la coppa dalla quale il mio signore beve e di cui si serve per trarre presagi? Avete fatto male a fare questo». Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Essi gli risposero: «Perché il mio signore ci rivolge parole come queste? Dio preservi i tuoi servi dal fare una cosa simile. Ecco, noi ti abbiamo riportato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo signore? Quello dei tuoi servi presso il quale si troverà la coppa sia messo a morte, e noi pure saremo schiavi del tuo signore». Ed egli disse: «Ebbene, sia fatto come dite. Colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo, e voi sarete innocenti». In tutta fretta, ognuno di loro scaricò a terra il proprio sacco, e ciascuno aprì il suo. Il maggiordomo li frugò, cominciando da quello del maggiore, per finire con quello del più giovane. La coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora lì. Si gettarono con la faccia a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione è questa che avete fatto? Non lo sapete che un uomo come me ha il potere di indovinare?» Giuda rispose: «Che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa». Ma Giuseppe disse: «Dio mi guardi dal far questo. L'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa, lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre». Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e disse: «Mio signore, permetti al tuo servo di fare udire una parola al mio signore. La tua ira non si accenda contro il tuo servo, poiché tu sei come il faraone». Il mio signore interrogò i suoi servi dicendo: «Avete un padre o un fratello?» Noi rispondemmo al mio signore: «Abbiamo un padre che è vecchio con un giovane figlio, natogli nella vecchiaia. Il fratello di questi è morto, è rimasto lui soltanto dei figli di sua madre e suo padre lo ama. Allora tu dicesti ai tuoi servi: fatelo scendere da me, perché io lo veda con i miei occhi». Noi dicemmo al mio signore: «Il ragazzo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse suo padre morirebbe». Tu dicesti ai tuoi servi: «Se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia». Come fummo risaliti da mio padre, tuo servo, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: «Tornate a comprare un po' di viveri». E noi rispondemmo: «Non possiamo scendere laggiù. Se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo, perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi». Mio padre, tuo servo, ci rispose: «Voi sapete che mia moglie mi partorì due figli. Uno di questi partì da me e io dissi: certamente egli è stato sbranato, e non l'ho più visto da allora. Se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti. Or dunque, Quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo alla vita del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che, come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà, e i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo nostro padre nel soggiorno dei morti. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre, egli ha detto: se non te lo riconduco sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, che io non veda il dolore che ne verrebbe a mio padre.